Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, siamo al 19, quindi l'anno è iniziato da un poco più di 2 settimane e mezzo. A che punto siamo? Ciascuno di noi, sono sicura, avrà salutato il 2011 con buoni propositi, facendo e fissando soprattutto obiettivi da raggiungere, ma molti di noi stanno già un po' ripensandoci. Qualcuno avrà anche gettato la spugna. Agli uomini in generale manca la costanza nei propositi e ciò fa sì che le loro imprese quasi sempre rovinino. Il difetto di costanza si manifesta in 2 maniere, o col mutar di segno appena scelto o col mancare di coraggio alle prime contrarietà. Francesco Domenico Guerrazzi, politico e scrittore italiano impegnato nel movimento risorgimentale. Fatta la diagnosi, come si dice, trovata la terapia, se la costanza vi fa difetto, se state rinunciando a realizzare, a portare a termine un vostro proposito o se avete proprio rinunciato completamente, la trasmissione di oggi è proprio per voi. Chiamateci 800 24 00 24, raccontateci il vostro proposito, troveremo insieme la strategia per arrivare dritti dritti alla meta. Da domani, da domani, voglio smettere di bere e voglio piantarla di fare la spugna, di sentirmi male, non avere vergogna. Con la lente del cannocchiale vedo il mondo che gira sempre tutto uguale e tu mi dici che si può fermare, ma chi vuoi darla a bere te non bevo più. Testo che racconta chiaramente quelli che sono i propositi più diffusi, quelli più comuni con cui molti di noi si misurano: smettere di fumare, ridurre gli alcolici, anche dimagrire. E in linea con noi abbiamo Mimmo Locasciulli. Ciao Mimmo. Che oltre ad essere un cantautore, questo brano Buoni Propositi è tratto dall'album Intorno a 30 anni, è anche un dottore. Quindi Mimmo, con te prendo due piccioni con una fava, magnifico. Eccoci qua. Eccoci. Sono tutte e due i piccioni. Senti, la canzone è un po' autobiografica? Beh, intanto l'ho scritta quando avevo tutti questi vizi, diciamo. Ero molto giovane, da giovane si è un po' più smodati che non da... maturi, a parte alcune eccezioni, insomma. Beh, sì, direi. Vedi, questo, quindi la maturità a volte, dico a volte, porta anche saggezza. Beh, saggezza, si fa di necessità virtù. Se poi non sei proprio uno stupido, capisci che gli eccessi possono rovinare anche la tua vita, oltre che la tua salute. E allora cerchi di metterci riparo. Senti, Mimmo, ma per il 2011... per un 2011 maturo, all'insegna del benessere, tu che propositi hai fatto? Ti sei già tolto tutti i vizi, tutti i distravizi, adesso che fai? Se uno è troppo perfetto... No, io credo che i buoni propositi siano un po' come le promesse di certi politici, si fanno quando, come devo dire, si vuole dare un'immagine... Cioè, se uno sa quello che deve fare, non fa buoni propositi, lo fa e basta. Quando si dichiarano e si declamano i buoni propositi, evidentemente è una specie di alibi poi per se stessi, insomma. Si sa benissimo che non si porteranno a compimento. Una lettura interessante. Senti, invece tu come medico, quali sono i propositi dei tuoi pazienti che ti mettono un po' in difficoltà quando devi aiutarli e sostenerli per realizzarli? Beh, esattamente quello che ho sentito all'inizio della trasmissione, cioè la difficoltà di tener fede a un buon proposito. E allora lì molte volte i pazienti fanno dei buoni propositi, cioè ci mettono veramente tutta la buona volontà, però hanno un nemico invisibile che è appunto la volontà. La volontà è indispensabile per riuscire a portare a termine ogni buon proposito che si riferisca alla salute, dalla dieta, dallo smettere. Io fumavo 80 sigarette fino a 12 anni fa, ho smesso da un giorno all'altro, ma devo dire per una presa di coscienza, cioè avevo provato per 20 anni, insomma non ci ero mai riuscito. Perché? Perché mi mancava la volontà, è stata una casualità, cioè la presa di coscienza mi ha fatto pensare: se sono ancora in tempo mi salvo. A volte certo. Però questo è un caso, voglio dire, anche un po' più complesso, ma il sovrappeso, le malattie metaboliche, il diabete, eccetera, richiedono veramente una forza di volontà che spesso le persone, i pazienti, non trovano dentro se stessi. Senti, a proposito di propositi, questo bisticcio di parole, c'è un appuntamento. Hai fatto un proposito che, anzi, stai mettendo proprio, realizzando una cosa che a me fa molto piacere, perché il 30, il 31 marzo e il 1 e il 2 aprile debutterà un nuovo spettacolo al Golden di Roma, un sì. Radio Days. Radio Days, Mimmo Locasciulli Radio Days. E di raccontare un po', insomma, il sottotitolo sarebbe 30 anni di storie e controstorie che poi si riferiscono alla mia attività. E stiamo scrivendo insieme a Jonathan Giustini un po' quello che sarà il canovaccio dello spettacolo. Saranno 4 concerti diversi, in trio, in quartetto, in quintetto e con il quartetto d'archi. E ogni sera ci sarà ci saranno uno o più ospiti, per ora sono tenuti segreti, naturalmente. Eh no, però io potevo dirlo, no? Mi sono lanciata. Oh, mannaggia! No, no, gli ospiti non facciamo i nomi. No, perché, però diciamo che c'è. No, ce ne sono tanti e belli. E tutto raccontato in musica, narrato da questa voce radiofonica fuori campo, quindi... Di cui non svegliamo ancora... Non svegliamo il nome, però sarà una bella voce. Sarà una bella voce che tra l'altro conosce molto bene la canzone italiana, conosce molto bene anche la mia musica e conosce molto bene la vita, per cui meglio di così. Voilà. Grazie a Mimmo Locasciulli per essere stato con noi. Fate buoni propositi e manteneteli, portateli a compimento, anzi facciamoli tutti. Grazie Mimmo, un abbraccio. Buona giornata. Ma noi di propositi ne abbiamo raccolti un bel po' con l'iniziativa legata al CD The Promise, che è andata in onda, vi ricordate, la settimana scorsa. Potete riascoltarla in podcast. Tra quelli di voi che ci hanno scritto, noi abbiamo richiamato Massimo. Ciao, buongiorno, sono Massimo. Allora, come ho scritto sulla pagina di Facebook di Essere Benessere, volevo in realtà promettere di dimagrire, però sapevo già che questa promessa non avrei potuto mantenerla. In effetti la vita sedentaria che faccio da impiegato non mi permette di fare molte attività fisica. Un giorno a pranzo mangio sempre un panino, e quindi questo non mi aiuta assolutamente a perdere peso. E l'unica attività fisica che faccio è quando torno a casa dai bimbi, insomma, per correre dietro a loro. Però, insomma, con questo intervento spero che possa mettere definitivamente la parola di poter prendere una promessa e iniziare definitivamente questa dieta. E volevo chiedere, insomma, a voi, ai dottori che sono in studio, di avere un consiglio sul pranzo da poter fare in ufficio, visto che la maggior parte delle volte lo faccio con un panino e solo saltuariamente vado, insomma, in un locale magari a mangiare soltanto un piatto di pasta. Grazie. E per Massimo e per tutti coloro, ci state già scrivendo e chiamando 800 24 00 24, che hanno deciso che il 2011 era l'anno giusto per ritrovare il peso giusto. Abbiamo in linea il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno. Ma buongiorno a tutti. Allora, il professore, lei ha sentito Massimo, ma certo. Prima di entrare nel merito dei consigli pratici, ha intuito quali sono i punti di forza e quelli invece di fragilità nel suo modo di raccontare il suo proposito? Perché io mi domando, se voi che dovete guidare, sostenere un cambiamento così importante, riuscite già ad intuire dal modo in cui i vostri pazienti ve lo chiedono, qual è la loro capacità da potenziare, di e quali invece sono le vulnerabilità da presidiare. Intanto, professor Speciani, dottor Speciani, questo è un invito che faccio anche ai nostri ascoltatori a raccontarsi all'800 24 00 24, in modo che ci raccontino proprio i loro successi, i loro fallimenti nel seguire una dieta. Cosa ha funzionato, cosa l'ha fatta fallire, perché l'hanno interrotta. Dottore. Allora, intanto è bellissimo perché la domanda è di un interesse assoluto. Io a volte mi definisco un ricontestualizzatore, cioè sto ad ascoltare le mie due specialità, le conoscenze scientifiche, eccetera, in realtà poi fanno spazio al capire effettivamente come una persona si sta ponendo rispetto alle proprie decisioni e a quello che farà. Voglio citare una cosa detta da Locasciulli, in realtà quando ha smesso di fumare, non quando diceva devo smettere di fumare, ma ad un certo punto ha detto se sono in tempo mi salvo, cioè lui ha espresso un parere positivo orientato sul futuro, questo è fondamentale. Come dall'altra parte, questo lo dico per Massimo, quello che lui deve dirsi è: io mi sto muovendo, non dovrei dimagrire, forse dovrei muovermi, però sono un sedentario, che sono tutta una serie di giustificazioni cui, se già lui razionalmente mette in moto questi meccanismi di blocco, immaginiamoci cosa fa la sua parte inconscia sotto, per spazzare le buone intenzioni. E cito, e questo mi piace moltissimo perché sono proprio due elementi diversi, a me piace molto la traduzione inglese della parola proposito, perché sono i due, uno è proposal, cioè metto lì davanti un obiettivo, e l'altro invece è resolution, che deriva da resolve, cioè risolvere un problema vecchio. Dei legami che noi abbiamo con il passato, che sono le vecchie abitudini che continuano ad essere esattamente uguali. Allora, Massimo si deve svegliare al mattino e dire: io mi sto muovendo, dopodiché va a camminare per 15 minuti fuori casa. È un inizio, ma è un inizio potente, forte, importante, e una delle cose che farà, questo glielo dico, è di fare, Massimo, se per caso stai ascoltando, una prima colazione ricchissima. Il problema tuo non è di cosa mangi a pranzo, perché a pranzo va benissimo un panino, purché sia A, integrale, quindi con un indice glicemico basso, B, con dentro delle sagge proteine ben fatte e delle ottime verdure. Se ha mangiato la prima colazione, sarà il panino che completa la sua prima colazione, senza esagerare. Vedo che hai trovato il sacro pesco della celestiale saggezza. Questo mi spiace, credevo fosse un normalissimo pesco. Allora, perché sei sconvolto? Probabilmente oggi ho fatto più schifo io di chiunque altro nella storia del Kung Fu, nella storia della Cina. Come farà Shifu a trasformare me nel guerriero dragone? Insomma, io non sono come i cinque. Forse dovrei mollare e tornare a fare gli spaghetti. Mollare, non mollare. Spaghetti, non spaghetti. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente. Presente è il dono, gift in inglese, e questa, dottor Speciani, è la parola chiave dello stile alimentare che lei propone nel libro, che si intitola per l'appunto La dieta gift, un nome che nelle prime tre lettere è acronimo di tre parole che sono cruciali, direi, per la realizzazione di qualsiasi proposito: gradualità, individualizzazione, flessibilità. Questo, dottor Speciani, tradotto in pratica, con esempi che possiamo seguire, come dice lei, da subito, lei sa che qui a Essere Benessere non facciamo teoria ma pratica, come possiamo tradurle? Ci declini queste tre parole con cose da super, fare? Super velocemente. Allora, gradualità significa che se il mio obiettivo è di perdere massa grassa, di sentirmi meglio, eccetera, se io mi immagino, e qui il pensare positivo è fondamentale, se io mi immagino come una specie di Baywatcher, cioè di persona super muscolata, fantastica, bellissima su una spiaggia californiana, troverò un mucchio di scuse per dire che tanto non gli assomiglio. Allora, il pensiero è la gradualità, immaginare di entrare dentro ai pantaloni della stagione precedente sentendoseli morbidi, significa avere quindi i propri pants, i propri trousers, i propri pantaloni che devono calzare giusti. Questo è un obiettivo assolutamente perseguibile e non ci sono scuse per non arrivarci, eh? Ok. E sull'individualizzazione, questo è fondamentale perché ognuno poi ha le proprie intolleranze alimentari che si stanno documentando importanti dal punto di vista del dimagrimento, ma l'individualizzazione è che se uno sa di avere delle remore ad uscire al mattino, ad andare, ad esempio, a trovarsi un compagno, sembra strano, l'individualizzazione, ci troviamo un compagno, perché io ad esempio da anni corro con, lo chiamo il fratello nella nebbia, perché in questi giorni ad esempio correre a Milano, non ci vediamo, parliamo senza vederci, però al mattino alle 5.45, alle 6, quindi ad orari strani, se uno ha un compagno, alla sera è più difficile dire no, domani non vado, al mattino quando ci si alza c'è un anelito, sì, certo. ci si sente, come dire, coinvolti e quindi ci si porta dietro una situazione e si rispettano anche i propri bisogni. Sulla flessibilità è importante che noi abbiamo una flessibilità vera, ad esempio sulla risposta al sonno. Se uno è stato in giro per lavoro per 2 giorni e ha dormito 3 ore per notte, non ha senso che si svegli alle 5 del mattino. Lì ha senso dire: ok, mi perdono, stamattina dormo perché il mio corpo ha bisogno di riposo. Però invece la flessibilità quotidiana in cui uno si concede i 3 dolcetti davanti alla televisione, questa non è non flessibilità, questa non ci piace, non ci piace assolutamente. Gilberto dalla provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Qui purtroppo c'è un grosso problema, che tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare. Io comincio sempre, però non riesco a continuare. Anche quest'anno mi sono riproposto di iniziare a fare la dieta, ma sostanzialmente dopo 19 giorni ho già ricominciato a fare il birichino. C'è proprio questa impossibilità, da parte mia almeno, a prefissare degli obiettivi e soprattutto portarli a termine. Secondo me, Gilberto, quest'anno lei ce la fa, non perché sono maga, ma perché sono sicura che il dottor Speciani, e poi se segue Essere Benessere, sa che noi portiamo buono, stavolta si svolta. Dottor Speciani, Gilberto ha iniziato proprio a sottolineare c'è un problema. Gilberto, non è un problema, è un'opportunità grandiosa. Tu non devi fare la dieta, tu starai bene. Allora, quando una persona inizia a pensare farò una dieta, e dieta nella persona, in genere nella popolazione, ha un significato negativo, di tipo privativo, allora tu ti devi svegliare al mattino, apri gli occhi e dici grazie al mondo, all'universo, a chi il diavolo vuoi, non lo so, e dici io oggi mangerò bene per me stesso, per stare bene. Perché quando dici oggi inizio la dieta, in realtà ti dai una martellata sulle ginocchia, come dire, perché è un, da un lato c'è un anelito, se si sente da quello che dici, e dall'altro c'è una negazione. L'organismo non è capace di gestirsi una negazione mischiata ad un effetto positivo. Dobbiamo dargli solo degli stimoli positivi. Quindi mi raccomando, Gilberto, con domattina, ma già oggi, io mangio, non io mangerò nel futuro, io mangio bene. E questo ti porta nel giro di pochissimo a sentirti sulla pelle, nel corpo, nelle ossa, nella carne, nel grasso che non c'è più, uno stato di benessere. Quindi la continuità è quell'indulgenza, per cui non è che sgarri dicendo rinuncio a tutto. Avrai un giorno in cui farai un inciampo. Santo cielo, sappiamo rialzarsi da altre cose, evviva, no? Gilberto, Gilberto, ci faccia sapere, e lei sa che noi siamo qui a sostenerla, quindi passetto per passetto ce la faremo. Allora, io direi che vorrei parlarvi, però è tempo dei mercati, quindi non ce la facciamo, vi do appuntamento subito dopo, perché c'è un guru, Leo Babauta, che è autore di un libro che in America ha avuto grande successo, The Power of Less, in cui spiega il cosiddetto metodo delle 6 modifiche, se vi piace l'idea. Quindi questo è un metodo che possiamo applicare in tutti i nostri propositi. Se vi piace l'idea, fate un buon proposito, restate e chiamate 800 24 00 24. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Oggi tempo inizialmente grigio e nebbioso nelle pianure, nelle valli e nei litorali, con le nebbie più importanti in Valpadana e tra il Medio e l'Alto Adriatico. Nel corso della giornata nevicate in arrivo sulle Alpi orientali e deboli piogge su Venezia e Toscana. In estensione verso sera anche a Lombardia, Emilia, Romagna e gran parte del centro. Nel resto del paese solo nubi in aumento, senza fenomeni rilevanti. Temperature massime in calo sulle Alpi, senza notevoli variazioni altrove. Venti in rinforzo alla fine del giorno al nord, con bora sull'Alto Adriatico. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E con questo è tutto. Essere e benessere. Ma non devi più preoccuparti per me. Mollo tutto. Palle. Compro una casa, una macchina magari, che ne so. Mi invento un mestiere. Un bar sulla spiaggia. Mando avanti il locale. Mi sposo la cameriera magari. Se ti telefono il prossimo dicembre, se io ti telefono il prossimo dicembre, sarai talmente felice di sentirmi che farai un doppio salto mortale all'indietro. Altri 2 ve li posso offrire? No, grazie, a posto così. Visto? Ho imboccato il sentiero virtuoso. Piano piano, un passo alla volta. Questo, cari amici, insegna anche Leo Babauta, di cui vi parlavo nel suo The Power of Less, in cui teorizza il metodo delle 6 modifiche. In sostanza, che cosa dice? Dice di concentrarsi su un cambiamento di abitudine per volta in modo da focalizzare motivazione e determinazione. A me sembra facile, soprattutto utile, per questo ve lo propongo, può essere applicato a qualunque proposito, a dimagrire, con di cui stiamo parlando, a continuare o a mettersi a fare un po' di attività fisica, proposito che affronteremo tra poco, ma anche cambiare lavoro, darsi una mossa. Scegliete 6 buoni propositi da realizzare entro l'anno. Dai 6 propositi individuati, selezionate quello da cui volete incominciare. Dite a tutti qual è il proposito che vi terrà impegnati nei prossimi 2 mesi. Individuate 8 cambiamenti realizzabili che nel loro complesso vi possono portare a raggiungere il traguardo che vi siete prefissati. Da oggi scegliete quale degli 8 cambiamenti volete introdurre nella vostra vita. Settimana prossima introducete anche il secondo, che aggiungerete al primo, e così via per 8 settimane. A questo punto, gli 8 piccoli passi che componevano il primo proposito dovrebbero essere compiuti e si può passare alla modifica successiva. Dottor Speciani, le piace? Può aiutarci anche Leo a seguire una dieta senza mollarla nel giro di poche settimane? Sì, è la ripresa del senso del pensare positivo, questo, ed è, mi viene in mente immediatamente quello che una persona deve fare. Lo do come intanto mi fa sorridere un po' questa idea dei 6 propositi, quindi uno ogni 2 mesi nel corso dell'anno, così se per caso uno ne manca un paio, gli altri 4 fanno media, no? Ed è carina, però partiamo subito, come ho detto prima, usiamo questo stimolo di Leo e diciamo sorridere il cambiamento, questo è un cambiamento potente, ecco, sorridere e pensarsi felici vuol dire proiettarsi sul futuro, e il cambiamento da iniziare è io cammino, può essere anche 10 minuti, ma io cammino, è inutile che vogliamo metterci in mezzo a fare quintalate di robe in palestra, piuttosto che poi la gente finisce che firma solo assegni anziché fare delle cose. Però io cammino è la prima cosa che uno deve fare, il cambiamento che tutti possiamo mettere in moto, quindi questo è l'augurio anche a tutti quelli che ci stanno seguendo. Dottor Speciani, io la ringrazio per essere stato con noi, quindi prima mossa camminare, ma anche camminare anche a livello proprio di approccio, di testa, di pensiero, muoverci. Quindi lasciare le vecchie abitudini, lasciare i nostri pensieri negativi, il nostro senso di inadeguatezza, per dire ce la posso fare, posso andare avanti. Abbiamo ancora Luca da Bologna, buongiorno Luca. Buongiorno, come va? Tutto bene? Benissimo. Mi scusi, il dottor Speciani è quello presente lì da voi? Sì, il dottor Speciani non è presente, cioè non è in studio, ma è al telefono. Il Dieta Gift, giusto? Esatto. Ah, che meraviglia, perché la mia compagna l'ha cominciata da poco, allora ho letto tutto il libro, bellissimo, perché io mangio integrale da 30 anni circa. E allora volevo solo dire che tutti i propositi che ho messo li ho messi tutti in pratica, solo che invece che rimanere propositi sono diventati un sistema di vita. E allora adesso non fumo più, non bevo caffè se non una la mattina, ho eliminato totalmente gli alcolici, vado in palestra 3 volte alla settimana. E invece che soffrire sto benissimo. Tutto qua. Luca, ma grazie per averci chiamato, dottor Speciani. È un bel regalo, grazie. Questo è un grande regalo, è veramente gift. Esatto. Luca è veramente gift. Dottor Speciani, grazie. Grazie a voi tutti e buona continuazione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Oh, ma sei un grande. Mi sono iscritto in palestra. Hai fatto bene. Aspettami. Perché come dicevano gli antichi, confusano, la capra crampa, fratello. Ecco, più o meno hanno detto anche quello. Allora ne ho girato un sacco. Oh, alla fine entro in uno spettacolo, in vetrina un sacco di muscoli, spettacolo. Vado dalla piaga della palestra e gli faccio: fratella, mi dovrei iscrivere in palestra. E lei? E lei? Mensile, trimestrale, serale, open. No, no, in palestra. Presa. Perché per andare in palestra non basta avere fisico. Johnny De Grove da Zelig. Ma io aggiungerei anche soldi. Io ho due figlie e quindi che vogliono andare in palestra, le palestre costano e molti di noi credono che staccare l'assegno li aiuti a diventare fedeli frequentatori del centro. Il senso di colpa, quindi, di aver buttato i soldi potrebbe aiutarci a vincere la pigrizia, però non funziona sempre così. Allora, in linea abbiamo il dottor Franco Confalonieri, che è medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS del Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, bentornato. Buongiorno, ben ritrovati tutti, buongiorno. Dottore, ci vuole gradualità, come lei insegna, ma qualcosa bisogna fare. Direi che la prima mossa è evitare di buttare soldi. Forse non siamo proprio motivati, e invece che iscriverci subito in palestra, proviamo a testarci, mettiamoci alla prova, misuriamo la nostra determinazione. Magari non è la palestra che fa il caso nostro, no? Non siamo tutti fatti da palestra. Sì, direi che una cosa non esclude l'altra, però, nel senso che per molti il fatto di scegliere un corso, la libera frequenza in palestra a pagamento, è fondamentale per dare motivazione, perché le motivazioni sono poi spesso fragili, quindi non escluderei questa scelta. L'importante è scegliere la palestra giusta, quindi una palestra su misura e facilmente raggiungibile, e inserire la frequenza della palestra o di un corso nella nostra quotidianità in modo comodo. Cioè, è vero che c'è la spesa, ma deve esserci anche la comodità di poter frequentare questo centro abitualmente. Per qualcuno può essere determinante, per qualcun altro, forse per la maggioranza, è meglio invece partire camminando, nuotando, facendo qualcosa che non abbia anche l'obbligo di tipo economico. Come faccio a capire se sono, volendomi muovere, se sono un tipo da palestra, un tipo da amico con cui, cioè da cercarmi un amico con cui correre al parco, se sono un solitario? Dove mi oriento? Ma se sono di fragile motivazione e ho bisogno di vedere i risultati in tempi relativamente brevi, è meglio scegliere la palestra. Se sono una persona che è portata comunque ad un positivo rapporto con se stesso e si dà tempo per raggiungere i risultati e soprattutto ha una vita molto complicata, quindi ha maggiore della massima flessibilità, è meglio scegliere la camminata o la corsa, magari tenendo conto di quanto diceva il dottor Speciani prima, cioè l'amico con cui fare qualcosa comunque aiuta a non rinunciare. E riprenderei anche il discorso molto bello del presente inteso come dono. Cioè, io credo che ma allora lei ci stava ascoltando, ma questa è una dichiarazione d'amore. È un po' sì. Un po'. Ah, questo mi piace. Sì, sono un po' in crisi d'astinenza. Lo so. E dicevo che il presente inteso come dono deve essere alla base di ogni proposito, cioè dobbiamo dare qualità ai nostri propositi, devono essere piacevoli, perché sennò possiamo raccontarci finché vogliamo che siamo motivati, che ci riusciremo, che è tutto bello, ma o aggiunge piacere alla nostra vita questa cosa o è difficile che la portiamo avanti. Quindi anche la scelta dell'attività sportiva deve essere prima di tutto una scelta che ci dà piacere o meno dispiacere possibile. Eli. Senta, io andrei anche al secondo caso, e quindi alle persone che si sono già iscritte ad un corso, io dico in palestra, ma può essere anche un corso, che ne so, di yoga, di pilates, hanno già speso i loro soldi, però vuoi perché non sono soddisfatte, vuoi perché poi alla fine arrivano tutte trafelate, vuoi perché magari si sono fatte male, insomma non trovano più quella motivazione a proseguire. Ma lei si fermi qui, perché noi proseguiamo con le informazioni sul traffico. Essere e benessere. Dottor Confalonieri, il caso difficile, i soldi li ho spesi, mi sono iscritta e qualcosa invece mi spegne. Ecco, qua farei due considerazioni. La prima, proviamo a rompere il fiato, un po' come quando si va a correre o si va a giocare a tennis piuttosto che a calcetto. C'è una crisi che arriva subito, uno dice, oh, ma non ce la faccio, mi devo fermare. Invece rompe il fiato e poi si diverte. Questo succede anche con l'inizio di un'attività sportiva. Dopo le prime due o tre volte in cui c'è entusiasmo, non si vedono i risultati, diventa complicato organizzarsi, uno mollerebbe tutto. Qua il mio consiglio è proviamo a continuare, proviamo a rompere il fiato, probabilmente ci abituiamo, cominciamo a vedere i primi risultati e tutto diventa più facile. Naturalmente se non riusciamo a superare questa crisi, ma è evidente che non ce la facciamo, allora saremo costretti a cambiare. L'altro errore da evitare è quello di fare qualcosa che non è compatibile con la nostra struttura fisica. Molto spesso uno smette perché non ha avuto l'accortezza prima di fare una minima valutazione medico-sportiva per capire se quell'attività era adatta al suo fisico, e quindi insorge il dolore alla schiena, al ginocchio, la piccola problematica fisica che ci obbliga ad interromperci. Quindi due consigli: una visita appropriata prima e non mollate subito. Non mollate subito. Giuseppina da Modena, 800 24 00 24, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la mia esperienza: io da ragazza per tanti anni ho fatto nuoto, poi ho sospeso tutto. Adesso, dalla scorsa settimana, mi sono riscritta in palestra. Sì. Con uno stimolo nuovo, diciamo, nel senso che mia figlia invece attiva sempre su tanti sport, ha fatto cavallo, nuoto, sì, ginnastica artistica, tanto comunque, a lei piace molto muoversi, e mi ha stimolato e io ho stimolato lei, ci siamo iscritte insieme. Mamma e figlia. Mamma e figlia, benissimo. Magnifico. Bello, stiamo insieme, facciamo un corso chiaramente adatto più a me, nel senso proprio di inizio. E lei segue. Insomma, mi accompagna la mia bambina, così si dice. Fino a quando la sua bambina l'accompagna e se la tenga stretta. Bellissima idea, Giuseppina, brava. Devo chiedere una cosa. Sì. Visto che è in un'età, diciamo, particolare, a 12 anni, quindi in fase di sviluppo, comunque nella fase in cui comincia, questa ginnastica le può essere utile fatta chiaramente con moderazione, certo, e senza particolari sforzi, perché penso che i muscoli siano in fase anche di crescita. Quindi dottor Confalonieri, la palestra può essere adatta anche agli adolescenti? Forse sì, con sì, qualche raccomandazione? Sì, qui forse vado un po' controcorrente, ma la palestra può essere adatta anche agli adolescenti, anzi, in questa fase noi siamo naturalmente predisposti a sviluppare la forza e a rafforzare le articolazioni. Naturalmente è fondamentale, prima di cominciare a fare degli esercizi allenanti, imparare ad usare bene le macchine del nostro corpo. La corretta esecuzione è una garanzia che la palestra poi funzionerà e sarà anzi fondamentale nella nostra crescita. Abbiamo un terzo caso. Direi che possiamo, in conclusione, occuparci di chi, come proposito, aveva quello di migliorare le performance. Dite così? Quindi parliamo di chi fa regolare attività fisica, ma non riesce, non sa, non ha la forza di andare oltre. Questo lo vive un po' come un fallimento. Non migliora più, insomma. Non migliora più, esatto. Non ce la fa più. Come si fa? Questo è un problema che abbiamo con gli atleti ai massimi livelli, e quindi anche con le persone più comuni, diciamo. Ecco, in questo caso io invece avrei un approccio di cambiamento drastico, cioè rivoluzioniamo tutto, cambiamo completamente gli obiettivi per un breve periodo. Mi spiego. Io ho scelto uno sport per migliorare la mia resistenza, per dimagrire. Basta, cambio, mi faccio un'attività che serve invece a migliorare la mia forza piuttosto che la mia destrezza. Viceversa, sono stato in palestra perché volevo muscolarmi, cambio tutto, mi dedico a un'attività aerobica per migliorare la mia forza e via la mia resistenza e via dicendo. In questo modo, da un lato interromperemo la monotonia, dall'altro lato daremo tempo al nostro organismo per stabilizzare gli effetti dell'allenamento che abbiamo fatto, e incredibilmente forse miglioreremo proprio perché non ci alleniamo più in quella direzione. Grazie dottor Confalonieri, alla prossima. Grazie a voi, a prestissimo, arrivederci. Proviamoci quindi, non molliamo, e se decidiamo di smettere viviamola come, direi, una pausa, poi proviamo a ricominciare. Secondo me ce la possiamo fare, no? E può anche essere divertente se non lo prendiamo come un esame. Possiamo anche farci aiutare nei momenti più critici dagli amici. Infatti il grande Leo diceva condividete, fate sapere in giro il vostro proposito. Ma ci possiamo far aiutare anche da internet. Io ho fatto un giretto e ho scoperto che la rete è piena di strumenti utili e gratuiti per aiutare le persone a raggiungere gli obiettivi. La maggior parte sono siti in lingua inglese, ma anche questo potrebbe essere la molla per fare un altro proposito, migliorare, affinare un po' la nostra lingua. Allora io ho riversato tutto questo sul tavolo dell'amico Enrico Pagliarini, in onda ogni sabato alle 15.30 con 2024, che è venuto qui proprio in studio con me e vedo che se la sta godendo. Sì. Ciao Enrico. Ciao, buongiorno. Dunque, io sono spesso qua, quindi sono venuto molto volentieri. No, è sempre qua, è sempre qua. Io lo vedo, sta ore e ore praticamente. Però, a parte questo. Allora, tu hai detto bene, internet è piena o pieno, dipende sì. se lo vogliamo declinare al maschile o femminile, di un sacco di cose. Un po' come cercare, che ne so, una pizzeria in una grande città. Mm. Ce ne sono sì. centinaia, quindi insomma ci sono un sacco di proposte. Vorrei partire però dagli strumenti che ci permettono di collegarci ad internet, cioè dal nostro computer o dal nostro smartphone. Iniziamo dagli strumenti che abbiamo già. Se noi utilizziamo la posta elettronica e molto probabilmente usiamo un software per la posta elettronica oppure le cose che abbiamo sul nostro smartphone o sul nostro telefonino, abbiamo già qualche cosa che ci aiuta sì. a ricordarci le cose. Cioè il calendario, che vedo che pochi usano, ma invece è utilissimo. Molti continuano a usare la carta. A volte passano sul mio computer e dicono: ah, tu usi il calendario sul computer. Vabbè, ma tu sei 2024. No, vabbè, ma è facilissimo. Noi possiamo mettere delle ricorrenze e, che ne so, tutti i lunedì il computer ci dice: pesati. Esatto, pesati. Oppure ti sei ricordato di non fumare? Sì. Che ne so, insomma. Quindi molto semplice, ce l'abbiamo già in casa. Sì. Ecco. Poi effettivamente direi purtroppo ci sono un sacco di cose americane. Più che in inglese, proprio americane. Sì. Ne cito due o tre che sono simpatiche. Con un'avvertenza: molto spesso questi siti nascondono alcune delle trappoline. Sì, cioè ci dicono: ti mandiamo un'email per ricordarti di e fare questa cosa. E tu cosa devi dire? Beh, leggi prima le istruzioni, poi magari dici di sì, però spesso dietro a questi email si nasconde: ti vogliamo vendere il libro, ti vogliamo vendere il programma di dieta. Soprattutto i siti di diete, vedo che nascondono un po' dei programmi a pagamento. Allora, ce n'è uno che non mi pare, che ha comunque una versione gratuita, che è Habit Forge. Habit è le abitudini, diciamo così. Forge è la forgiatura, quindi diamo la forma alle abitudini. E questi per 21 giorni, non so perché 21 giorni, ma ci sarà pure un motivo, ti mandano un'email e ti chiedono: hai fatto la tal cosa? Perché qua si può scegliere quello che uno vuole. Bella. Quindi l'abitudine che uno sceglie. C'è un sito che mi piace molto, questo è molto serio, fatto da un'associazione americana, che è My Life Check. È su un sito dedicato al cuore e ci sono sette regole per avere sempre il cuore in forma. Non fumare, stare attenti alla pressione, mangiare poco, vedi? Eccetera eccetera. Ecco, le solite cose. Esatto. Poi se andiamo un po' fuori da questo ambito, quello della salute, ci sono un sacco di cose sul budget familiare. Quindi anche quello rientra, risparmiare è uno dei qua, buoni propositi. Molte cose 2011. Ce le abbiamo già. Se uno ha un conto in banca, e spesso i conti moderni hanno anche il servizio di home banking, quindi il controllo di internet in remoto, uno può semplicemente andare tutti i giorni su internet e stare attento al proprio conto corrente. C'è gente che magari per una settimana non guarda il conto e non si accorge di aver speso un sacco di cose. Dico un'ultimissima cosa. L'unico problema di tutto quello che abbiamo raccontato è che se il mio proposito, che è uno di quelli che io faccio spesso, è usare meno il computer o usare meno il telefonino, ecco, tutto ciò diventa poco utile. Grazie ad Enrico Pagliarini per essere stato con noi. Lui d'altronde è sempre qui e quindi lo possiamo chiamare sempre. Torno quando volete. E io torno domani, se vi piace restate con noi domani a partire dalle 11. Grazie, buona giornata.